pizza. Bravo, sei capito al volo. Ti guardi, è successo un bel così, come hai fatto a capire al volo? Perché conosco una storia analoga, praticamente il fratello di un amico mio è così lo stesso. È partito prima di fare il militare, anzi è partita tutta la famiglia, lavoravano tutti alla BMW, infatti lui veniva sempre con macchinoni, lì ne cambiano ogni poco tempo, perché lì mi pare che ogni 2 anni deve fare la revisione, adesso anche qua, ma prima qua si faceva ogni 5 anni mi pare, e prima di cambiare, di fare la revisione le cambiano tutti, quindi trovi macchine nuovissime a poco prezzo. E quando li capitavano le occasioni in fabbrica se ne prendeva, si prendeva le macchine, poi le rivendeva qua, scendeva in Italia, se le rivendeva, poi se ne risaliva su, prendeva qualche cosa in più, però sempre meno di quello che ti danno qua. E era successo così, il fratello è ancora là, lui è ritornato, anche il padre era l'unico che non lavorava alla BMW, perché lui lavorava in un ristorante, e oggi una madre e 2 fratelli, tutti quanti lavoravano in fabbrica alla BMW. Capano, anche questo ragazzino sta bene, c'ha un ipermercato tutto suo adesso, ma comunque ci ha fatto la navetta, è stato fuori per 25 anni, perché in quel reato lì di servione da militare, dopo 25 anni, le caleva adesso, e non c'è più neanche cosa di fare militare, però ci volevano 25 anni, penso, e lui non è potuto rientrare per 25 anni in Italia. Se rientrava, se pure in Italia. È così, è come disertore, lo prendono, mio zio lo stesso, poi era partito in America, Detroit, da quando aveva 18 anni, e poi praticamente era presso una famiglia milanese che conosceva del suo paese, che erano immigrati, viveva con loro come se fosse un figlio, loro erano marito e moglie, non avevano figli, e avevano preso lui in pensione, e stava lì in quella casa. Poi si doveva sposare, 2 o 3 giorni prima del matrimonio, la ragazza, che doveva essere la moglie dopo forse un mese, non lo so, è morta in un incidente. E lui non si è più sposato, però si è buttato sul lavoro, ha cominciato a fare fortuna nel lavoro, cambiare mestieri, e alla fine è diventato il capoccia di una fabbrica grossa. E c'aveva su di Agogo, si comprava un abito e lo rampava in chimica, si vedeva la macchina fotografica e te la regalava. Usava le cose una volta e butta. Ehi, capo, ricordo un sacco di questa gente era andata in Germania, erano di graziati, disotturati, sono ancora in chimica, sono ben puri. C'ho anche un amico, era partito, cioè è cambiato lo stesso, 18 anni, si era partito in Germania ed era andato addirittura a lavare i piatti nei locali, così allo spam era partito. E ultimamente quando ci eravamo visti facendo, come si chiama, un dirigente di questa fabbrica di prodotti per bambini che si vendono le farmacie, cosa cazzo sono, comunque, per biscotti e per assurdi di cose. Ma la farmacia, dici? Capo, una cosa del genere. Proprio sei lui e l'altro fratello che era partito dopo, anni e anni sono riusciti a aprire questa cosa qua. Stavano bene, ma non va bene. Sì, no, già, adesso non più, adesso adesso non c'è più il lavoro che c'era prima, ma prima anche a Gerino, quello che sono stato, era partito lì in Germania, ha detto che cambiava posto di lavoro quando vuole, se andava da un posto, il giorno dopo trovava lavoro in un altro posto, dice che addirittura nelle vetrine c'era scritto cercasi pizzaiolo, cercasi cameriere, cercasi questo, cercasi altro, dice che gli faceva una passeggiata in città e aveva l'imbarazzo della scelta. Ma tutto questo veniva prima, infatti stiamo parlando ormai di tempo dietro, ma va, non è così, le macchine venivano anche quelle fabbriche lì, adesso sono allo sbaraglio, anche chi andava dall'Italia a lavorare in fabbrica trovava facilmente, sì è vero, perché vado già anche io cugino, che lì si trovava lavoro molto molto facilmente, ma va, non è così qui. Attenzione che va a soffrire di questi tempi punitivi, infatti, anche lì adesso c'è un po' di crisi. E prima di pidare gli italiani prendono quelli del posto. A lui gli aveva segnato un tunisino a fare le pizze, ma dice che era un bel bravo, un bel bravo. C'era un tunisino e un greco che erano pizzaioli. Dice che lui aveva segnato loro, dice che all'inizio faceva le pizze che ricuniva a terra e rimbalzavano. Beh, si mangiavano tutto lo stesso, se no che ti aveva ricutta a faccia, anche mi ce la mangiava. E la domenica più o meno, soprattutto l'estate, come andavi in Corsica il lavoro, trovavi specialmente italiano, cuochi e quant'altro, ma anche muratori, muratori italiani, sardi, specialmente, li prendevano così a... Durante l'inverno la manovalanza, i muratori, sardi, tu lo vedevi la mattina, partivano le traglietti perché di mattina pieni di gente così. Ed estate, pochi lavabbiati, puro, tutta la manovalanza italiana, di così, da mi mamma, furivi, non è più così, punitivi, Poi, non è più così, no. Prima addirittura uscivi dalla scuola, io ho fatto le professionali, quando sono uscito dalla scuola mi hanno segnalato questo ufficio, mi hanno chiamato, c'erano dei posti in cose d'Arabia, come saldatore, Tunisia, tutti i saldatori che stavano facendo. E non ci sono andato io, perché se no lì si prendeva già da allora 7 milioni al mese, no, ti dico un poco. Lo so, ma ormai è tutta finita la roba lì. Quando lo rompevo, adesso mi ricordo che io ho lavorato anche a Sant'Antonio della Luna, no? Per qualche anno, quella, che questa cosa era molto diffusa, proprio in Corsica, ricevono proprio queste, soprattutto cuochi italiani, era una cosa incredibile, ricevono un bel. Però probabilmente avevo una mentalità, di cazzo qui a quei treni di bravari, che erano di lì, insomma, o non arrivare, non lo so come ti funzionava la cosa, però difficilmente tu entravi in ristoranti, in alberghi, difficilmente tu trovavi roba francese o così, trovavi sempre italiani in tutti i posti. E magari gli piaceva il modo di cucinare degli italiani, probabilmente è quello, mi piaceva la cucina italiana. Ma non so, tu sei mai stato in Corsica? No, non lo sono mai stato. Mi ero promesso di andarci, invece non ci sono mai andato. Uno stile molto molto tipico sardo, italiano, anche nelle costruzioni delle case, sulla vista ci sono le strade, ecco, non le visto prima ci siamo andati, ci sono le strade strettissime proprio, vabbè quelli sono anche in Francia così, ci sono le strade strette, molti muretti a secco, tutta roba fatta da sardi, molti muri a secco, trattati proprio così con come si usava in Sardegna prima, non so, ora anche verso Bastia, quel posto lì, trovi in mezzo alla boscaglia, che c'è scritto che ci ha provato a vedere, ma è tutta roba di muretti a secco. Ma mi ha detto un amico che è andato, che ci sono molte strade anche con scappiumi senza guardia. Trappa, tagliaccio a Bastia, si vai, se vai, non ti ritira più di giù, Infatti sto camminando ogni tanto vedi anche una carcassa di macchina. Che pagato. E giù ce l'ha c'entro la fede di Bovaracci. Ma quanto mi stava dicendo Cerchione, dice che la colpa l'hanno data a quello là. Sì, la colpa l'hanno data a quello là. Mi dice pure a misura, buono, camminali, minchia, camminali, Corsica, camminali, Sono anche, diciamo, fuori controllo, perché diciamo che la gendarmeria francese in Corsica non è molto presente, non ti credi sia il mio gran piedi, sia tipo la stradale o cosa, la gendarmeria che fa tutto, ma fa tutto e non fa niente, perché anche i soccorsi ti dicevano qualche cosa, non è che sono così presenti come te in Italia, No, qui c'è la gendarmeria così. E allora, lì c'è la gendarmeria, che c'è la sezione stradale, ma è una presenza, è poco della... questo controllo del territorio, soprattutto infatti la Corsica è anche un porto franco, un po' di tutto lo smercio, di tutte le categorie clandestine, dai. E pochi controlli, dai, anche perché è un'isoletta. Kappa. E sono anche bombaroli, chi mi... Se sa di chi trovano gli italiani, poli di bomba. Che cosa? No, non è così, no. Già so più... I calorici non sono affari ostia, no, ma no, no, non è così, non è così. È tutto un casino, dai. Non... italiani... tipo... c'è un porto inestimabile che passa un po' tutto, ecco, e la fermata di tutta la roba del commercio anche clandestino, insomma c'è di tutto di più, ci sono attacchi abusivi, vieni lei, guarda già. Kappa. Ora. Dove ti arrivo di segnare con questo apparecchio qui? Inizia dalla parte finale e poi vedi un po' tu. Kappa. A prendermi il conto, ma sei troppo vicino. Ci va meglio un piglio dall'altro. Ma comunque la radio è uguale, è vero. Qua è tutto a posto, radio 5, effetto presenza. Il segnale non te lo dico neanche, lo sai. Che ti stavo dicendo, fra un po' passo, mi preparo, anche se non gli può cagare, secondo me stacco, non capisco perché, ma c'è una stanchezza addosso, perché poi Marco me lo fa apposta, si mette a cantare, a fare, non mi fa riposare. La differenza è che quasi con questo qua, tutto attenuato sì, due, con l'altro sì, tre. Col Galaxy? Kappa, sì, tre, con l'altro. Più basso del Galaxy questo? Mi pare sano. Ora. Sì, Kappa, se non te l'hanno mai detto, se non fosse questo qua, non l'ho mai guardato io, ti ho attenuato. Con sì, tre, e questo qua sì, due. E vabbè, magari non corrisponde quello che segna. Ah, boh, non lo so. Però l'altro io sei cattivo, sei sempre stato tre. Io ce l'ho qua. L'hai segnato? Sei attenuato, Gianni, non da rompere attenuanti. Quindi con questo non ce l'avevo. Cavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcavalcaval già è tutto regolato. No. Ma ancora si ce l'ha bene, per essere l'apparecchio vecchio di tanti anni, sa il fatto suo. Io ricordo non c'è niente, la vecchiaia, cosa, se l'apparecchio tuo dov'è, se funziona da dov'è, ma ci poteva andare come il primo luogo, cioè che lui non ha mai comprato, ma è vecchio, capite? Una cosa vecchia si è tutto regolare, funziona tutto bene, ma quanto quello nuovo, non capisco perché deve andare di meglio. Anche perché a volte la roba nuova dopo tre giorni si rompe. E poi su me, anche quello c'è. Però se la cosa funziona bene, sia nuova, che vecchia, e tutto quanto. E anch'io in tutta roba nuova faccio. Già, sta andando bene. Adesso ci vuole attaccare l'ala 48 normale, quello che aveva in macchina di mia moglie. Per un minuto c'era amplificato, come si chiama, l'M93. Quello va bene. Sì, l'M93 che va bene lo stesso. Però un minuto, c'è una ricezione favolosa. Quello è vero, c'è molta più ricezione di altri barattini, per esempio i segnali deboli me li tira fuori più bene, quello è vero, però quello più straordinario dell'ora 48, l'ora 48 di segnale che li tira fuori stesso bene, i segnali deboli, però cazzo più lungo, come ti mamma mia. 48 BSX secondo me è migliore della 48 normale, si dica quel che si voglia. Ieri sono passato quando Massimiliano aveva risplatter lì, proprio sotto, perché non sai dove passo io, e non sentivo nulla, non sentivo niente, proprio un bisbiglio, nulla. Non so perché adesso dentro non so più come prima, perché BSX non è come l'altro. Ma cazzo, ma sono non ho mai compreso che cosa ne hanno fatto. Un apparato così che c'è pure già una buona modulazione. Così io sono sicuro che se anche su quello normale avessero fatto gli accorgimenti un po' più elaborati, sarebbe stato così lo stesso come il BSX. Invece che guarda, a me piace tra l'altro la 48, l'avrei fatto anche modificare meglio di questo qua, però cazzo non ti ripiglia a cuori assolutamente, va, ti prendi il BSX e vai tranquillo per parlo e te lo fai modificare. Dentro adesso il BSX esce con le luci blu, completamente tutto blu, anche quello dei canali, tutto. Costa sempre più o meno la stessa cosa, esce con le luci tutte blu. A proposito, ho visto su internet adesso già che c'è cose di numeri proprio, allora ti danno il LED per lo splitter, il LED per al posto di rimanere verde quando azzurro quando non stai trasmettendo e diventa rosso quando trasmetti la trasmissione del PIX, e poi c'è il quadrante, ti danno il quadrante da inserire, devi togliere quello che c'è nel numero e mettere quest'altro quadrante, diventa azzurro al posto di essere verde o rosso, e ti diventa azzurro, lo vendono in kit e costa 39 euro più le spese di spedizione. Ma adesso lo vedo prendono già completo, Fiorba. Se tu vuoi prendere tutto l'apparecchio, lo prendi completo, buonanotte, c'è tutto qua, tutto duro completamente. Poi non fai altro che metterli da camera e così a posto, come ho fatto io. Sì, certo, quello già ho capito, ma il compenso sta dritto. Un LED dello smitter, un LED che blu diventa rosso, e più questo quadrante che diventa azzurro, cacchio mica è 1,39 euro. Non so, ma perché la passione, tipo camionista e cose così, le piace. No, io preferisco la luce fissa blu perché mi piace quella. Rossa non mi piace, sinceramente. Mi piace più fissa blu. È un bel colore il blu di notte. E io non ho capito, no, lo smetto di fare blu. No, la lucetta blu per lo smetto, e poi ti hanno quel LED che è verde e poi diventa rosso qua del TX, no? Quello invece quando è in pausa è blu, con lo schiaccio diventa rosso, e poi il numeretto che c'ha questo quadrante, che tu devi togliere quell'altro, cioè perché si toglie quel quadrante, so che diventa blu. E tutto quanto, 39 euro per la spesa di spedizione, perché sono bastardi. E io te l'ho detto, che la passione lo fa perché le piace, magari così, capito? Ma dico, perché se lo deve comprare? Invece che comprarselo normale e poi cambiarsi tutto, si compra direttamente il BSX nuovo che hanno fatto, che è tutto blu già, tutto pronto, e i canali, le luci blu, e cosa c'è? E la camera, ecco, se la butta. Costo lì. Non lo so con la camera ecco, però così mi pare che c'è 65 euro, una cosa del genere, l'ho visto. Ah, la camera ecco però no, è a parte, cioè la camera ecco normale, intendiamo. E deve dire sempre 150 euro in più. E che pare? È così, è così, è così, è così. La camera ecco costa così. Prima la facevano per 100, adesso mi pare 150. Vabbè, ma comunque qua penso che in Sardegna ancora poco poco, tanto quando in Sicilia c'è uno sbirgio di baracchini al 48 e tutti affini, tanto che non è di parete, e Sicilia, Calabria, è napoletano. Lo so, lì proprio c'è il boom. Antenne, antennini, cazzo, no, che c'è lì che è diventato un boom. Io a casa se la posso, va a vedere, sono lì che faccio i coccodrilli, che se non ti vendono, cazzo, guarda, quei PL, mamma mia, cazzo, cazzo di tu, cazzo, fanno schifo, uno schifo. Cosa siete possibile che non è, cioè, perché li vedi bagattare di due pezzi di cosa, di cosa in plastica, non hanno fatto pagare come fate pagare, ma portate un po' di roba sia, noi siamo messa che hanno salgati, e sono già i soldi sono salgati. Che bene. Ma io portavo in cosa, io. E là sto arrivando, adesso per tempo di ciambamba, ciambamba di mutande anche. Guardalo qua, vediamo dove è questo. Ma tu chiave in tasca ieri ci avevi, una chiave singola. Guarda, guarda, me ne muovo. Non è la tua. Chiave? È una chiave di casa, singola. Una chiave di casa, di casa. L'ho trovata sul sedile oggi perché sono andato a spostare la macchina per prendere la moto e l'ho vista sul sedile di dietro. Te cos'è questa cosa? Era una chiave. Ma è negativo già, no, non è roba mia. No. Allora, chi si è seduto? Lasciamo ieri. Dalla parte dove eri tu. Ma quando siamo andati con Giuseppe, Giuseppe non si è seduto lì perché era macchina sua, quindi non è possibile. Qualcuno l'ha persa, io me l'ho messa nel borsello, adesso il primo che è, che sento che l'ha persa della donna, e pensavo fossi tu perché ci sei tutto ieri. No, è roba mia, no, io non ne ho più, ce l'ho chiamato di casa io. La prova delle settimane. La prova di casa? Beh, io te la faccio vedere poi, se non è la tua, non la so dove era. Che bella, che bella. Vabbè, vabbè, invece che me la preparo e poi sto passando, no, ciao ciao. Già, non è roba mia, la chiave di casa io, c'è già. Perché mi sta telefonando. Positivo, dai, ho pulpi, andato a che pulpi parecchio risvegliavamo. Cavolo. Canna poca cosa, con la canna poco, ma con la muzza sì. Allora c'era uno dei miei, dei gemelli, che era bravissimo, Cazzo pigliava le botte, pure di più, cazzo, nelle mese da occhio, cazzo in chiva, sentino, andati a me, cazzo, il 9 giugno, un cazzo pigliava le botte, pure in chivi. Picca, pagava. A zone sono a zone, purtroppo, GG, sono a zone, capito. Secondo la zona del capiti riesce a pigliarne anche 4, 5, 6, dipende. Secondo la zona del vai, nulla, proprio 0, 0, 0. E adesso non abbiamo più niente, abbiamo venduto tutto, mutte, non c'è più un cazzo, nulla. Niente, non c'è più niente. E come mai, Gigi? No, io non c'entro più. Vabbè, ma i tuoi figli potrebbero anche entrare. No, neanche loro ci stanno andando più. Prima, da quando siamo sposati non sono andati più. Gavarocci, va bene, questa è... Oltre il baracchino, un'altra passione che ho è la pesca, subo, niente. Ma ci saranno giorni migliori, dai. Guarda, io anni indietro la pesca la facevo più del baracchino, ti dico, guarda, ero, come c'avevo tempo libero era pesca, o con la canna o con la muzza, e quando era la muzza era la canna, sempre con i miei figli, poi soffro un po' di dolore e mi piglia dolore, se entro in acqua, che se no la muzza è grossa, ma mi viene a dolore dopo. Beh, posso crederci. Va bene, oggi è andata così, va bene, ci vediamo meglio la prossima volta. Positivo. Cava. Riprendi Gianni, Nisba, avanti un po'. E allora, cosa mi dici di buono? Cosa si dice di buono? Ti volevo portare il polpo oggi invece, Nisba, niente. Sì, c'è un po' più presente che passano a prendere. Vabbè, hai idea di ciò è? Di tutte le grandezze, di tutti i chili e chi ne ha, chi più ne ha più ne metta, dai. Beh, purtroppo così. Cosa vuol dire farti? Ma sì, tra un attimo, venire più di un polpo, Adesso non so se è sempre più di polpi, Sì, dai, periodo già, solo che c'era mare, c'era troppo mare, capito? Voglio sentire. Era corrente addirittura, allora l'ha già fatto. Ha già pigliato, mi sono buccio, ha già fatto un po' con il di rizzo e... ecco, cioè... lumache di mare. Era, insomma, mi sono divertito lo stesso, Sì, ho un rizzo per amare in chiedini e non lo fecio, o qualche poco più l'ha già fatta, chi era per amare, vera, Lo so, però ti posso dire una cosa, garantire una cosa, ero piccolini ma ben detti. Forse era chi ti dai rifa, là, ti tira la rifa, Che rocca, Rocca, era lì, Gigi. Ma meglio di entrare faccio tutto. Ti devi entrare. Buonasera. Buonasera, Adesso buonasera a tutti. Ti stiamo facendo entrare, a parte il buonasera solo, ti volevamo far parlare, ma non hai parlato. Ma tu buonasera a tutti, ho parlato, no? Ma ti voleva continuare. Così è. Io sono retirato, io la parola. Dai, io passo la parola a Natalino, Io passo la parola a Gigi, caro. E io mi aiutato, piacere. Bubu. A tiri con pareggi, ma che? Se non torni ben entrato Natalino, ben entrato anche Vera. Va bene, se non torni a tutta e più tutta la ruota, già va bene così. Perché fa questo come ti va? Dove ti vedo basta subito, subito. Tanto voi che mi sono delle bruce, ma non è troppo, non lo so. Oggi, mi pare che brucia più di lastre di oggi, mi sono fatto 4 ore a Muglio, o Iuia, e so che c'è anche molto, ho capito, Ah, sì, a Muglio? e a moglie a luna. Ma Rizzo cavallo non avevo. Rizzo a quanta età? Oh, figo, bella, ma mangiato puro. Eh beh, se non cavi lo mangi, no, cosa fai? Lo assicuri a prendere busa. Non c'è chiamato però, cava cava, un po' lontanuccio, vedo, un po' lontanuccio. Cosa facevi? Due bicchieri di vino o ricca? Cosa fare? No, lì ti sei sbagliato, lì facevo un litro di vino, due ricci e un pezzo di pane. Deve sapere le vasalità pure in Briachesa, non vino, le vasalità, gli venne da un ricci. Guardi. Non mi stai a guba, dove non l'aveva contato quando ce n'ha visto. Bravo, bravo, la tari. E tu sei da ricco, carissimo. Carissimo, forchetto. Oh, Giulia, è tanto una poco fredda leva oggi, pagare dai. Beh, dai, gli ti sei fatto lo scaldino vicino. No, un poco l'hai giubbato, che mi c'è che non cos'era, e che... e vai, dai, andiamo a fare così, dai. E cosa volevo fare? Ci sono giorni positivi e giorni negativi, e... andare così, dai. Se l'acqua era fredda, è importante che il vino fosse in temperatura. Quello sempre, veda, il vino è sempre in temperatura. Allora, poi c'è sempre la pressione alta, questo banchetto. Ma, poco fa, sono sbaglio, su questo canale non c'era anche Giuseppe Tornado. No, non l'ho sentito bene, a Tornado proprio non l'ho sentito, Se l'ho lasciato io, ho detto che ci risentivamo appena uscivo dalla macchina. No, Giuseppe, Gianni. È una stata l'ora. No, già c'è un mese, Giuseppe è tornato. Dove sei? Vicino a casa. Chiamagava. sei macchina tua, macchina di chi? Di Piero. Ah, capa capa. Anda bene bene, ma cosa siete decisi a pescare anche voi? Ande. No, la nara. Detto, siete andati a pescare anche voi? No, negativo. No, non sono andati a pescare. No, perché era bello ieri, ieri c'era un mare che era una tavoletta. Oggi era gonfio, oggi era molto agitato. Avevo. Allora, senti, era un bel cavatone, un bel. Ciao, la capra. La capra. Anda bene, mera. Un attimo di bianco, vado a fare il rosso. Ma a rifornire qua. Natali, ci vuole, ci vuole. Io mi subito, adesso si è aperto qua, e prendo le sigarette e faccio un rifornimento di caffeina anch'io, cava cava. Ah, dimmi sì, Natali. Lo dico con Aravutv, dice che andava a Graziella a pigliarmi le sigarette. Non ti era abituato che le macchia. No, vabbè, non me ne va bene, non mi ha perdendo lo smitto, vabbè. E vabbè, cioè, Graziella. Ma sono vabbè. Vabbè. Ma c'è una canzone che è una Graziella, che Buongiorno, quando due, cambio. Il carabinieri mi hanno visto senza cintura, il prema non mi bicicchi, non mi bicicchi, va a culo. Io non ti bicicchi, non sono vicino a te, Natali, a punto di non ti bicicchi, ma poi sempre sei impassibile. Penso che impassibile, io voi ci dite tu, già a posteggio, fa un sicuro, tanto mi hanno sempre tra di là, come che mi... Ciao, Rogariello, ben entrato. Andiamo a volante 2, mi sentite le volante 3? La volante 1 mi ha sentito, è la volante 3 che non si fa sentire bene. E come non vuoi sentire bene la volante 3, cambio? Perché si passa, passa, passa, dove stai, dove stai, dove stai? Qua vicino alla volante 4, capa. Ah, Cavarocci, Cavarocci, PM? Gianni, mi senti Gianni? Ehi, ma lo stiamo qua? Luigi, sono, avanti dove sto, trovo un uomo qua. Ah, però il caffè stava andando già, ti fai trovare. Ma lui sta andando? Ah, però il caffè con Luigi. Ah, cava cava. Non lo so, poi io sono in macchina per fare, non lo so cosa devo fare, mica la minita. State impassibili, state impassibili. Fatevi un bacino, polizia già, dai, sta la questura. Ci ha fatto lo stomaco, ma se vediamo. No, io sono... noi siamo fuori, siamo... questo è la ultima. Andava, era un capa. Che lunga, che zona siete voi? Bocca. Ah, vicino alla questura. Ah, incapita. Gorgolo. Scusa, Rita, Cosa Rita, Padrone me ne dici un po'. No. Arroiato sono di piatto. Arroiato, come mai? Non così. Non sei uscito oggi? No, no, oggi niente. Cava cava. Bene, sono arrivato lì, lì, lì. Io non voglio che stai arrivando bene. Ma il controllo di Santiago. Santiago numero 9:20, sei qua. Cavarocci. Cappa di Roggio. Io, Gianni Doppio Ru, facci sognare. Ehi, ehi. Qua c'è il tapparino, abbiamo visto la Graziella. Qua c'è la macchina fuori. Deve essere entrato a pigliarsi le sigarette, come ha detto. Sì, sì, sì, sì, è andato a prendersi il fumogeno, e infatti era preoccupato perché ha detto che aveva visto i carabinieri. E adesso si è ritrovato il porno, avvisatelo che sono fermo. Ah, sono fermi dove? Dopo il semaforo di Bella della Feroce, della Putimutana. Cava cava, appena esce lo avvertiamo subito. Alla Come? Alla infatti, infatti. Ma dunque, strano che non si possa modulare. Ma allora che cavolo vengono fatti questi apparati per mettere in macchina? Non ho capito già. L'hanno fatti per fare la ferma. Camminando non lo puoi fare. Ma non mi sembra neanche una cosa giusta, Con la voce non puoi fare, insomma, e basta. Lascia stare il caffè. Già fatto, già fatto. da Argentina, sta rischiando questo qua. Vagava, guarda che c'è il posto del blocco vicino al semaforo, eh. Partito lui, ma si chiama di poco di sentiera. Adesso sto aspettando la persona, è tutto il mondo. Cava, cava. Proprio lu, facci sognare. Eia, eia, sogna, sogna, qualche. È il momento, sogna, che pensi che non ha preso. Ehi, vabbè, non ha importanza, non tutti i giorni sono tranquilli, ci saranno giorni migliori. Andiamo assieme, facciamo strage alla faccia di questo Fiorù. Io non ho bisogno di andare a chiamare giù, non vado da solo, faccio strage lo stesso. Ma già lo so se ci sono io e chi dalla cantona. Ma quando ho preso il minuto ho sempre preso. Ma lo so anch'io, scappa. Adesso ti sei abbassato ancora di più. Ti ha fatto mangiare anche le seppie. Chi? Ma io ci faccio mangiare via dall'altro, però tu. Ma io sono felice a quel posto, non posso fare nulla. Ma io ci andavo da prima lì. Sotto. Pittina, ma andavo da prima. Si va via il boschereccio, ma io mi vedete in chi vi ho ormeggiato. E allora via sotto lì. No, io ci andavo da prima a pescare quella canna lì. Ah, ma non la seppia, perché le seppie hanno cominciato a pescare e l'hanno, l'avevo detto io. Non ce n'erano prima. Guardi, ma non è che quello che c'era, sono entrati adesso per chi prima non venire, no, che seppia. E tu stanno consolando tutti i chivi, ero credo. Poi sono stati muretti quelli per pescare, per i lisci. Si deve ritornare lì. Ci ritorno perché lì è miracoloso come posto. Ma adesso organizziamo doppio rughe e andiamo assieme. Con la canna però. No, con la mutta io. Ma lo credo, ma è puzziloso. È una cosa, tu fai con la mutta e la attacchi alla mamma, così ricordiamo un naso, sarebbe un cappotto a già di doppio rughe. Davvero, mi Natale. E a chiesa non si fa che non vengo un pescio che è ferito da un fucile. No, oh, a parte gli scherzi, quando è che organizziamo e ci andiamo, Gianni? Adesso mi come scalda un po' il tempo, io vado, poi chi vorrei, io sono andato anche solo tante volte. E mi diverto lo stesso, perché tanto conosco tutti lì, mi faccio la chiacchierata con uno, la chiacchierata con l'altro, li conosco. Quelli che vanno a pescare lì, quindi non c'è problema. Quando vuoi? Cappa De Rogero, ma giù a Papatango. Ehi, ehi. Positivo, là. Quando sei pronto mi fai sapere e ci organizziamo, dai. Fertilia, dove vuoi? Cappa, cappa. Dove vuoi tu, già, andiamo. Ah, soffiamo i due. E poi vi siete sovravolati. Ha giudito che va una concorrente in più. Da culo di piazzarmi a picca, mi sa tanto di fare anche concorrente in più. È nata lì, basta portarla. Tu ti vedi al giudizio, andiamo. Andiamo, andiamo. A me devi portare qualche amica però. E allora tu vuoi troppo che? Però che fai candela e chi vi io? Almeno fammi compagnia, no? Siamo di uscita. C'è una pantera, questo cavo di due però. Che non è problema, per farmi compagnia, parla, c'è cosa, c'è il problema. Da lì si comincia. Via. Dove sei arrivato, Gianni? Ti racconto, Vincente. Ne. Eia. Dove siete arrivati? Siamo arrivati esattamente alla casa della Lana, all'incrocio, per dove Torres. Cava cava, che andava bene. E tu Natali, dove sei arrivato? Io sono fermo qui, sono qua a Sant'Orsola che sto aspettando la 25. Ah, cava cava, andava bene. Sant'Orsola, Sant'Orsola. Vagava, ma sai che sto passando io, gli frego la 25 adesso. davanti all'altro, con i nudi. Nulla. È poco più, guarda. Vabbè, comunque. infatti tu hai esperienza su uno e tu con l'altro, no? Scappa, questo non è neanche difficile. Bene, bene, bene, bene. Ma per la 27 ce n'è anche per i porci. E come sta arrivando l'altra radietta, bella bella, bella bella sincera. Cambio l'antenna, devo la X30 e metto la più alta. Te la regalo a me. No, chi me la dà, lo trovo uno scambio. Io mi do la più alta e lui si prende l'altra qua. Cazzo, uno scambio di vita. Oh. mi stai sparendo dal radar, mi stai sparendo. Perché? Ma io non sento sempre bene a Gianni. Ma? Eia! Ma non sento sempre bene. 7, 9, 9, 5, 9, 10, 9, 9, 5, 9, 10, qua. Piccino. Ma tu provi la tassi proprio negativo. Negativo. Cappa. Ehi, dimmi già. Che cosa mi arrivi qua? Uno. Non mi piace bene, va. Mi sento chiaro, ma sentiamo, non sei tu officerimi a tu guarda. Ehi, non è portato a Santiago, no. È portato la radio, che pagava. Va bene. sei arrivato, l'ingresso? Siamo dove c'è, dove faccio la verifica. Cavarocci. Diceva a cosa è mia, come si chiamava QCB, che c'ha l'azienda lì adesso. Vicino a Giuseppe Bandiera Gialla. Ah, Bandiera Gialla. Ehi, che abbuglia, lo conosco. Faccio io. Sì, un'abitazione apparente Giuseppe Bandiera Gialla. Adesso abita lì, in fronte al lago di Baraz. Ah, che abbiamo detto casa. Sì, si è anche sposato con una ragazza, un amico singolese o polacca. Ai ai, cosa dite? Cava, cava. Vediamo Gianni. Gianni. Ehi, io sto chiamato, ma c'è la pezza aspetta che stava parlando. Cava, cava. E allora? E allora mi stavi chiamando 60 minuti. 60 minuti. Anda, benemena. Siamo sulla strada provinciale Berger, stiamo incrociando diverse vetture con i fari accesi, in cosa volete sapere? I fari accesi? E perché è buio? Perché sei stato di rifare? Anche se non è buio, si accende, lo fa il tempo. Dile che si bruciano le apparine, a spegnerle. Anch'io le pecorelle. Sì, alle riunioni, mi pare. Mi sa che questi cani mi stanno mangiando tutte le pecore, fa studio, vanno in Grecia, tutti i branco, i cani, e si mangiano le pecore, le spugliano tutte. Ah no, e oggi ho un cinghiale fuori dal recinto, c'era oggi scendendo lì all'Argentina, ha detto a me compare, ma cittadina ci prendiamo, ce lo carichiamo, va bene. Ciao, ciao. Va immagino. Riprendete la robot. Cappa, dimmi, sono qua, stavo guardando una cosettina. Tutti in giro sono, tutti in giro. In giro. No, va bene, dai, già domenica, domani, lunedì. E ci inizia a tremolare. Yeah. fianco a bancale, passate, siete. Ancora no. Qui sul bancale argenteo dobbiamo fare poco, non col ponticello. Dove si vede mica fa la cacca, se. Via cacca. So, sei il figlio così. Figlio? Che l'avevo capito? Sempre migliore. Prova. Se non lo metto come la prima, guarda a vedere. Ma prova, no, così, è più forte. E così ho messo ancora l'altro un po', guarda un po'. Forte veloce. Gamba Roggio, sì, questo è il presidente però. Bene. Presidente della Cina questo, il cos'è? Al George. Prenditi! Lo rincorro, ti sei Sono meglio che sono, vedi col gatto tu no. Cazzo! Che? Che fai una coda, cazzo di gatta? Una coda di gatta? Ma io vedo, non la vi piombo, non la vi. No, l'ho attaccata dove c'è la parabolica, non la piombo. Che l'ha piazzata la parabolica, non me la via lo piombo. E tu hai seguito aereo? Io non ho seguito aereo. Beh, un pugno a voce, vabbè, fasciccia. Se no, avevo fatto qualche tacchetto a drizzarla. Cosa la dritta con le tirante? No, la dritta con le tirante, no. Già, la dritta con le tirante. No, non funziona così, no, Pierpa. Dai un po' di Viagra. Ecco, se ridiamo un po' di Viagra, magari ya, si può attrezzare a giura. Viagra. Ehi. Mario, Cabal. Yeah. Luca, e beh Luca! Ah, mi senti o no? Basso, basso! Cazzo, basso, basso! Sicura, sì! A male terra! Dai, ma sta arrivando! Ma sto scherzando! Mi fai preoccupare, mi fai! Oh, basso, perché io sono basso, capito? Il segnale non sono come quando c'è l'antenna su, capito? Ah, giù si chiama un po'. Andare a guardare, chiama a gara. Con questa cosa, no, non mi sente nessuno, è un caso di mamma di prima terra. D'accordo, va. Vabbè, a me quando mi devono ascoltare così non mi piace neanche a entrare. Ero sempre acceso, Pierpa, e niente, e non ho sentito nessuno. attimino quando siamo scesi a vedere le bancarelle e ma ho ripreso subito 10 minuti proprio di coso, di buio e per il mio baracchino. Quelle poche bancarelle che hanno messo, no? Tanto per poter vendere qualche spiccioletto. Segnale che ha preso ieri sotto casa. No, sei trattato il domicilio. fare perché non ha il coso, la pompa di direzione, non ha la aspirazione giusta. E loro nel centro a centrale gli danno un errore dell'aspirazione, rimane in pratica chiusa, prechiusa, no? Allora se il tubo non andava, allora abbiamo resettato la centralina e adesso sta andando, infatti ho provato a fare chilometri, tutto a posto. Cappa, Pierpa, meno male, lo sai che ieri mi è rimasto, come sono rientrato a casa, lo scrupolo che non fosse stato quel segnale maledetto che si prende a casa, che ti avesse magari disturbato un attimino la centralina della macchina. No, è scoppiato quel tubicino, e da lì ha combinato il casino perché la centralina ha fatto un errore, e rimaneva un starto sempre aperto. Ma se gli anche il tubicino nuovo la macchina si spegneva, non rimaneva al minimo più. Abbiamo resettato tutto ok, tutto a posto. Cassa di positivo, Pierpa, meno male almeno quello sei riusciti a sistemarlo. Un secondo che risponda a Veronica che me ne mangia in un capo. Mario, c'è un'altra via della portata. si muore di brutto, specialmente quando si prende il centro stella. Salvatore.